nostro leader, il vostro Dio onnipotente. La mia parola è legge per voi mortali, e in venti inverni che strisciate sulla terra. Quando parlo vi dovete spaventare. Il vostro Dio onnipotente. La mia parola è legge per voi mortali, in venti inverni che strisciate sulla terra. Quando parlo vi dovete spaventare. Il vostro leader, il vostro Dio onnipotente. La mia parola è legge per voi mortali, in venti inverni che strisciate sulla terra. Quando parlo vi dovete spaventare.